Investire informati. Oggi ci facciamo aiutare a leggere le notizie finanziarie di questi giorni, intanto da chi le scrive. Moria Longo del Sole 24 Ore, ben ritrovato, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Autore di molte analisi interessanti, accurate, con le quali in questi giorni ha cercato di ricercare a sua volta e approfondire le ragioni di questa ondata di pessimismo cosmico che ha contagiato gli operatori finanziari. Poi, per capire come ci si comporta in questi mari agitati, cosa fa un investitore professionale, sono le stesse scelte che può fare magari un piccolo risparmiatore, Giuseppe Marsi, amministratore delegato di Schroders Italy SIM. Buongiorno a tutti. Benvenuto, una società di gestione internazionale che ha ben 200 anni di vita, quindi immagino, Marsi, che queste fasi, non lei ma la società, le abbia già vissute e gestite. E allora, Marsi mi accusa sempre di invitarlo quando i mercati vanno male malissimo. Col recupero di ieri io ho provato ad invitarlo in una giornata che fosse un po' più serena, purtroppo oggi ci dobbiamo smentire un'altra volta. Porterò male io. No, è che purtroppo, insomma... Che cos'è? L'avete riconosciuto? Sì, il gufo. Il gufo, eccolo qua. Insomma, visto che possiamo... Sebastiano Barisoni, quando commenta queste giornate di borsa, gli ascoltatori lo definiscono sempre il gufo e qua, insomma, c'è ben da divertirsi anche con queste immagini. In realtà noi oggi vorremmo ancora una volta condividere con i nostri ascoltatori appunto le analisi sulle vicende finanziarie di questa settimana e anche per dare, se possibile, istruzioni operative per gestire questo nervosismo e una volatilità di questa dimensione, perché se Milano fa più 5 e il giorno dopo fa meno 5, dire che Moria la seduta è volatile, le sedute sono volatili a dir poco. A proposito di gufi. Esatto, volano proprio anche le borse. Il punto della giornata lo abbiamo fatto poco fa. Voglio subito un commento di Marsi su queste ultimissime giornate. Mi spiega un commento così subito un po' istintivo. Cosa significa per una banca guadagnare il 10% e il giorno dopo perdere il 10%? Che interesse, chi è che ha interesse a mettere in scena questo film dell'orrore finanziario, Marsi? Ma dire chi ha interesse è difficile, dire perché succede forse è più facile. E allora, per capire che cosa succede, leggete gli articoli di Moria sul Sole 24 Ore, perché secondo me è uno dei pochi che ha capito che cosa sta succedendo. Vabbè, intanto esatto, adesso io ho tutti gli articoli degli ultimi giorni, lui ha analizzato molto dettagliatamente il fattore politico che potrebbe essere il denominatore comune di tutti i fatti che si sono scatenati in ogni parte del globo, che si sono messi insieme tutti in una volta. Però volevo chiedere appunto, Marsi, soffermarmi proprio su un commento da parte sua, proprio come investitore professionale. Questi titoli bancari, ma non solo, perché qua poi, come dire, oggi tracolla un po' tutto, si comportano come i titoli tecnologici della bolla speculativa dell'inizio del 2000. Ma le sembra ragionevole tutto questo? Secondo me dobbiamo vedere perché succede questo, per capire che cosa fare. In Europa ci sono degli organismi di vigilanza sulle banche che sono completamente slegate dalle scelte politiche. Per cui un EBA, per dire Henry, a capo dell'EBA, lui analizza quali sono i rischi contingenti. È l'autorità bancaria europea, sì. Lui analizza quali sono i rischi, se i rischi aumentano chiede maggiori coperture. E maggiori coperture in una situazione di mercato che è quasi recessivo, inizia ad esserci il problema recessivo, aumenta il fattore di rischio. Quindi un'autorità slegata che fa controlli e costringe ad accantonare capitali nei momenti in cui invece i capitali dovrebbero circolare creano quello che sta succedendo. Allora, 800240024, se volete commentare con noi i fatti del momento, raccontateci come state gestendo questa volatilità, se riuscite a rimanere anche un po' distaccati, se ritenete di aver fatto una buona conversazione con il vostro consulente finanziario, pertanto avete fatto una pianificazione finanziaria del vostro risparmio di lungo termine e quindi anche quello che succede in questi giorni vi tocca relativamente, o seppure siete preoccupati per qualche motivo. Moria, riprendo una ricostruzione pubblicata ieri dal Sole 24 Ore sui fatti principali che si sono susseguiti dal 1 gennaio in avanti, no? Noi eravamo già reduci all'inizio dell'anno dal calo continuo del prezzo del petrolio e da queste notizie sul rallentamento economico cinese. Poi abbiamo avuto, adesso faccio una sintesi estrema, 1 gennaio entra in vigore il bail-in, poi crolla la borsa di Shanghai, la svalutazione dello yuan, l'Iran. A metà gennaio l'ONU prevede il fine dell'embargo per l'Iran. A gennaio, sempre a metà gennaio, la Consob punta il faro sulle banche italiane e chiede una conferma della richiesta della BCE sulla gestione delle sofferenze. Draghi tranquillizza, non chiediamo altri aumenti di capitale alle banche italiane. Padoan con la commissaria Vestager fanno l'accordo sulla bad bank all'italiana, le banche vanno nella bufera, la Federal Reserve a fine gennaio dice porta aperta ad un nuovo rialzo dei tassi a marzo, poi smentita dalla Federal Reserve di New York. A fine gennaio la Banca Centrale del Giappone sorprende tutti, porta in negativo i tassi per la prima volta nella storia. In questi ultimi giorni anche la Grecia ci si è voluta rimettere naturalmente. E c'è un altro tema, magari ne parliamo dopo, del quale si parla poco, ma il Sole dice preoccupiamoci anche del Portogallo. Il tema politico, dici tu, è il filo conduttore che lega tutti questi argomenti. Sì, secondo me ci sono tre ordini di problemi. I primi sono, diciamo, economici, i secondi politici e i terzi tecnici finanziari. Tutto nasce da un problema economico globale che c'è. La Cina rallenta, la Cina rallentando ha un gigantesco debito delle imprese. Le imprese cinesi sono indebitate pari al 160% del PIL cinese. Questo in un'economia che rallenta diventa un grosso problema. I paesi emergenti sono iperindebitati perché negli anni in cui la Banca Centrale Americana stampava denaro, i soldi andavano nei paesi emergenti, le imprese si sono iperindebitate in dollari. Il petrolio che scende mette in difficoltà i paesi produttori e le aziende produttrici. La Grecia, vabbè, non ne parliamo, l'Europa, le banche europee hanno ancora dei problemi, sebbene si siano molto rafforzate, quelle italiane hanno tanti crediti deteriorati, quelle tedesche tanti titoli tossici, quelle francesi hanno i loro problemi, ogni sistema. Quindi i problemi nel mondo ci sono e non bisogna nasconderci. Certo è che il mercato sta esagerando adesso. Perché sta esagerando? E qui entra il secondo fattore, quello politico. Tutte queste crisi, tutti questi problemi sono stati, a mio avviso, esasperati da decisioni politiche quantomeno discutibili o quantomeno raccontate male ai mercati. Per esempio, sulle banche italiane ed europee. Che le banche italiane avessero crediti deteriorati si sapeva l'anno scorso e l'anno anche prima. Anche quello prima. Ecco, che quelle tedesche avessero titoli tossici nei loro bilanci derivanti ancora dalla prima crisi del 2008 si sapeva. Che Deutsche Bank avesse titoli tossici, lo sapevamo tutti. Perché adesso crollano? Perché l'Unione Europea ha deciso di far partire la seconda gamba dell'Unione Bancaria, cioè il cosiddetto bail-in, che prevede che se una banca andasse in crisi a pagare per il suo risanamento non sono più gli stati ma sono gli investitori, cioè gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati in prima fila. E questo ovviamente ha creato un po' di panico sui mercati, perché banche che già avevano... Come se questa riforma fosse stata disegnata in una notte tra il 31 gennaio e il 31 dicembre, questa riforma era stata disegnata prima, però appunto, per esempio prendiamo il caso, allora, visto che mi stuzzichi, il caso delle banche italiane. Allora, le banche italiane, abbiamo detto, avevano crediti deteriorati già prima, però salivano in borsa. Nel 2015 hanno fatto grandi rally. Piazza Affari è la migliore borsa d'Europa. Cosa è successo? Il 22 novembre il governo fa il decreto salva banche per salvare le quattro famose banche, Etruria, così. Di cui tra l'altro torniamo a parlare domani a Cuore Denaro. Ecco, in quel decreto c'era un piccolo particolare che ha gettato il panico un po' generale. Cioè il governo, diciamo più l'Unione Europea che il governo perché gli è stato imposto, ha costretto queste banche a svalutare i crediti deteriorati che avevano in bilancio al 17%. Il mercato ha subito iniziato a farsi venire la pulce. Se tutte le altre fossero costrette a una cura da cavallo di questo tipo, allora le perdite si calcolavano circa 40 miliardi di perdite nel sistema bancario italiano. Quindi sta portando il mercato i valori in borsa a quei livelli. A quei livelli, come se facessero tutte quante una svalutazione di portafoglio di quella montagna. Mario Draghi, come hai detto tu prima, è intervenuto e ha detto guardate che non chiederemo a tutte le banche questa cosa. Però il mercato non ci crede. Ma il mercato non è che non ci crede, al momento ci ha creduto, tanto ora ci fu un rimbalzo. Dopodiché il mercato è tornato dubbioso perché il governo sta facendo adesso la famosa bad bank. La bad bank è un modo per aiutare le banche a smobilizzare i loro crediti deteriorati. Ma siccome è fatta a prezzi di mercato, sebbene poi ci sia una garanzia statale su una parte di il mercato dice, ma se i prezzi in prezzi di mercato non sono i prezzi dei bilanci delle banche, ma sono più bassi. Se le banche fanno smobilizzano le loro sofferenze ai prezzi di mercato, hanno perdite in bilancio. Allora, quindi, devono diciamo, rafforzare tutte queste decisioni politiche hanno creato il panico sui mercati per quanto riguarda le banche. Lo stesso discorso si può fare sul petrolio basso, perché in quello è una battaglia politica dell'Arabia. Esatto, adesso, no, perché dopodiché è entrato il terzo fattore. Che raccontiamo dopo aver raccontato agli ascoltatori di nuovo cosa succede in borsa stamattina. Dammi un minuto di tempo. Cuore e denari. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre. E con questi scenari finanziari, dove le mettiamo le nostre monetine? Davvero una bella sfida per chi deve anche fare il lavoro di consulente finanziario e suggerire ai risparmiatori come puntare al meglio in questo momento il proprio denaro. Puntare non è naturalmente il termine corretto, come gestirlo al meglio, soprattutto per proteggere il risparmio che faticosamente le famiglie italiane riescono ad accantonare ogni mese. E allora, naturalmente, per fare questo lavoro in maniera intelligente bisogna intanto capire cosa succede sui mercati. Stamattina stiamo cercando di farlo di nuovo con Emoria Longo del Sole 24 Ore e Giuseppe Marsi, amministratore delegato di Schroders Italy Sim, e anche insieme alle vostre domande all'800 24 00 24. Ci state già testimoniando un po' la vostra confusione rispetto anche a questo bombardamento di notizie che abbiamo dai telegiornali, dai nostri radiogiornali, dai giornali tutti, che invitiamo comunque a seguire con attenzione in modo tale da non trovarci impreparati rispetto a scenari anche un po' più difficili, perché questo gufo che io ho già come termine attribuito a Giuseppe Marsi, ma se lo dice sempre da solo, sostiene che Marsi, poi faccio completare l'analisi a Moria Longo che ci doveva ancora descrivere un po', esatto, la terza gamba della sua analisi che manca. Però insomma so che lei è convinto che questo che abbiamo visto tra gennaio e febbraio non è uno scenario ancora completo. Per quale motivo? Ma io vedo che c'è veramente un rischio grosso della tenuta dell'euro per diversi motivi. Vi faccio un esempio. Se uno ha una famiglia, sono due fratelli, uno molto ricco e uno molto povero, la media della famiglia è comunque una famiglia ricca. La media di Trilussa, dei tre polli. Sì, assolutamente. Se il fratello ricco aiuta il fratello povero prestandogli dei soldi a un tasso da usura al 20%, probabilmente il fratello ricco continuerà ad essere ricco e il fratello povero continuerà ad essere sempre più povero. Quindi, chi è in Europa il fratello ricco e il fratello povero? Allora, lei dove vede queste due? Allora l'Europa è nata da una libera volontà di associarsi tra stati uguali. Adesso l'Europa è una unione tra creditori e debitori, dove i creditori stanno dettando le regole ai debitori e le regole che stanno dettando sono a favore dei creditori, non sono a favore dei debitori. Quindi vi faccio un esempio: se in Europa c'è meno del 5% di disoccupazione in Germania e in Italia c'è il 12%, bisognerebbe far sì che in Italia la disoccupazione diminuisca. Come fare? Detassazione probabilmente degli utili societari, favorire nuove assunzioni. Misure eccetera. Che a Bruxelles direbbero sono aiuti di Stato, quindi certo, non vanno bene. Aumentano il debito austerità. Italiano, eccetera, eccetera. Quindi che cosa chiediamo invece alle banche italiane? Di coprire rischi che solo noi abbiamo. Guarda caso non copriamo i rischi che hanno le banche tedesche, ad esempio sul finanziamento all'esportazione cinese. Mm-hmm. Perché non scordiamo che poi le banche tedesche sono esposte verso la Cina esattamente come erano, forse di più, di come erano esposte in Grecia quando siamo intervenuti a sostenere di fatto il ripagamento dei creditori dei debitori greci alle banche tedesche. Allora, non mi stupirebbe se andando avanti così ci fosse un finanziamento dell'Europa alla Cina per far fronte all'indebitamento delle banche tedesche. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non è possibile che un'unione ci sia se chi sta meglio non aiuta il povero. È come se l'Italia avesse due economie, una del sud, certo, e una del nord. È come se lo stato di New York non aiutasse la California. Adesso non so se è un parallelo adeguato, però insomma quell'unione là è chiaramente molto distante da noi. Moria, ti lascio completare l'analisi appunto che facevi prima. Che ne pensi di questa? Esattamente quello che stavo dicendo analisi. Prima, questo fa parte del problema politico, cioè i problemi strutturali ci sono. L'Italia ha un alto debito pubblico, le banche italiane hanno la loro fragilità, le banche tedesche hanno la loro fragilità, la Grecia ha le sue grandi fragilità, però il problema politico di un'unione politica europea che non esiste, anzi è una battaglia tra creditori e debitori come si diceva adesso, ha amplificato i problemi che sarebbero stati facilmente risolvibili o comunque risolvibili la politica sta complicando le cose. Quindi io prima parlavo del bail-in, ma in realtà la politica, e non solo in Europa ma in tante parti del mondo, sta esasperando delle problematiche che ci sono ma che andrebbero risolte. Invece la politica, invece di risolvere, crea invece il fattore tecnico, il terzo che fattore, abbiamo prima, detto ci sono problemi economici, portando questo ribasso problemi di borsa, politici che hanno esasperato i problemi, ma poi c'è un fattore tecnico, perché secondo me le borse stanno esagerando nei crolli e nei rimbalzi. Mm-hmm. Qual è il fattore tecnico? Il mercato finanziario è talmente grosso, talmente strutturato, tecnologico, automatico, che si creano una serie di effetti a catena, vendite forzate, l'ho chiamato in un articolo, che vanno a esasperare i crolli e i conseguenti rimbalzi. Per esempio, è un fenomeno molto noto quello del ottenere finanziamenti da parte di investitori mettendo azioni in garanzia del finanziamento. Ovvio che quando le azioni crollano, le borse crollano, le azioni si deprezzano, la banca ti chiede di reintegrare le garanzie. In gergo tecnico si chiama margin call, hanno anche fatto un film con questo titolo. Esatto, che ricostruisce la crisi di Lehman Brothers. Esattamente. Esatto. Quando la banca ti chiede di reintegrare le garanzie, tu puoi o mettere nuovi soldi, se ce li hai, o nuove azioni, se ce li hai. Se non le hai, la banca cosa fa? Vende le azioni in borsa e con il ricavato rimborsa rientra il prestito. Ebbene, se questo meccanismo lo moltiplichi per un mercato finanziario gigantesco, per un mondo gigantesco, questo esaspera le vendite in borsa. Quindi più le azioni scendono, più le banche sono costrette a vendere le azioni in garanzia, più le fanno scendere. Certo. Quindi si crea un effetto vizioso. Ci aggiungo anche un altro fattore. Magari molti investitori professionali dicono ad un determinato prezzo esco dalle azioni. Se il prezzo scende c'è il famoso stop loss, esatto, al di sotto del quale chiaramente certi investitori non vogliono andare, per cui si liberano di azioni determinando un ulteriore effetto a cascata. Oppure ci sono anche i fondi sovrani dei paesi arabi. Hanno questi giganteschi salvadanai dove hanno messo i petrodollari negli anni passati. Sono pieni, hanno circa 7 mila miliardi di dollari questi fondi sovrani. Questi 7 mila miliardi di dollari li hanno investiti nel mondo, in azioni, in obbligazioni, in immobili, in tante cose. Dal momento in cui il petrolio rende poco, vale poco, i paesi arabi hanno problemi in patria di bilancio, i fondi sovrani che fanno? Vendono azioni in Europa o in America o da parti del mondo per fare cassa e colmare i buchi di bilancio in patria. Quindi questo sta esasperando quindi tutto questo sta esasperando le vendite, che hanno motivi, ripeto, economici concreti, politici concreti, ma la borsa sta esasperando tutto questo. E allo stesso modo, quando ci sono i rimbalzi, scattano le cosiddette ricoperture, quindi chi era al ribasso deve per forza, e quindi si creano queste volatilità altissime, meno 5 più 5 in un giorno, due giorni, che sono le stesse giornate che mi ricordo vivevamo tra il 2008 e il 2009. Forse erano anche più esasperate in quel frangente, perché avevamo giornate di borsa con rialzi e ribassi dell'8-9-10% complessivamente, però vedo che in questi giorni ci stiamo riavvicinando appunto a quella situazione. Abbiamo Paolo da Prato ed Alessandra da Roma pronti ad interagire con voi. Ci hanno chiamato all'800 24 00 24. Il tema è: intanto abbiamo un consulente finanziario che ci racconta come sta gestendo la situazione con i suoi clienti un po' nervosi, e poi c'è anche chi ci chiede, adesso la sentiremo bene, mi avete raccontato tutto questo, noi invitiamo sempre a prendere coscienza dei fatti finanziari che ci capitano attorno per non essere colti di sorpresa. Dice: sì, va bene, belle le analisi, però adesso che cosa faccio? Paolo da Prato, comincerei con lei. Sì, buongiorno, mi sentite? La sentiamo bene, grazie. Sì, veloce perché abbiamo il traffico, sì. Sì, un promotore finanziario che, allora, diciamo così, che i clienti in questo momento non sono molto agitati, perché noi cerchiamo di farli stare tranquilli, ma la situazione ce l'abbiamo noi, perché io proprio in questa fase vi sto chiamando con l'order pressorio al braccio, quindi è un discorso che vale anche per Nicoletta. Bravo, è veramente l'ospite di Cuore Denari ideale. Ideale, vero? Ecco, quindi no, però ecco, diciamo che sotto per ora, anche perché insomma abbiamo cercato di coprire un pochino i rischi, eccetera. Io volevo fare però una domanda al signore di Schroeder. Sì. Per chiedergli più che altro dei fondi flessibili, un pochino in generale, perché a suo tempo c'è stata, diciamo, una sorta di chiamata sui flessibili per alleggerire un po' il carico di rischio delle azioni. Però mi sembra di aver notato che, tranne qualche rara eccezione, i fondi flessibili hanno deluso le aspettative, diciamo. Paolo, mi piacerebbe capire poco, dove oggi c'è qualcosa che abbia soddisfatto ampiamente le aspettative degli investitori. Cuore e denari. No. Noi facciamo anche Rischia Tutto, perché non solo spieghiamo agli ascoltatori i temi di salute ma anche finanziari, poi li interroghiamo anche e per i più meritevoli apriamo la biblioteca di Cuore e Denari. Allora chiedo ai nostri ascoltatori di spiegarci all'800 24 00 24, naturalmente nella modalità in cui l'hanno compreso, in termini semplici, se hanno percepito per bene che cos'è il bail-in. Quindi spiegatecelo come meglio credete all'800 24 00 24, siccome è un concetto non facile, proprio ai più volenterosi daremo volentieri uno dei nostri volumi. Allora, Marsi, Paolo da Prato si rivolgeva esattamente a lei. Intanto, che cos'è un fondo flessibile, se vogliamo, visto che siamo sempre in tema di educazione e divulgazione finanziaria, sì. E poi perché Paolo dice, insomma, erano un po' gli strumenti più suggeriti dagli operatori finanziari, ma tutto sommato anche quelli non hanno risolto granché. Non hanno gestito bene. I fondi flessibili sono fondi che variano l'allocazione degli investimenti in varie classi di investimento, azioni, obbligazioni, convertibili, eccetera. Oppure in vari settori, eccetera, e hanno nella flessibilità la loro caratteristica, quindi variano questi pesi in modo dinamico. È naturale che, conoscendo gli investitori, che cosa fanno gli investitori professionali, loro usano tonalità di grigio e non bianca e nero. Quindi e dovrebbero attutire quella che è una diminuzione dei valori, però in situazioni di stress come quelle attuali è naturale che uno dice: io mi aspetterei che flessibile in questo momento non avesse zero di azioni, zero di rischio e tutto monetario. Ecco, questi non sono flessibili, ma perché i gestori veramente non prendono queste tipologie di scommesse così in modo drastico e quindi non sono soddisfatti naturalmente di certo. Come stanno. Allora vi faccio sentire cosa ci chiede Alessandra, poi vorrei anche rapidamente con Moria magari esaminare la questione Banca Centrale Americana, la titubanza che c'è in questo momento in termini di politica monetaria negli Stati Uniti, perché anche quello magari, come dire, sono scelte complicate da comprendere a noi comuni mortali, poi in realtà non appena vengono fatte certe scelte condizionano tutti i mercati finanziari e ne subiamo anche noi le conseguenze oppure ne approfittiamo dei vantaggi. Se ce ne sono. Alessandra da Roma, benvenuta. Alessandra, così un attimo si è distratta, aspettava che la chiamassimo, ma voleva un consiglio per investire. Una piccola cifra. Marsi, torno a lei. Allora, piccolo o grande che sia, certo che immagino che in questo momento questa domanda se la facciano in molti. Avendo avuto la lungimiranza magari di uscire dal mercato alla fine di dicembre portando a casa un po' di guadagno, per chi adesso avesse un pochino di liquidità? A patto che voglia da una parte conservare il capitale e dall'altra parte magari cominciare ad assumersi un po' di rischio. Secondo lei che cosa deve fare? Allora, questo silenzio? No, il silenzio è molto... Allora, io faccio parte di un comitato di investimento, come potete immaginare, mi chiamano il gufo nel comitato di investimento da novembre a questa parte, perché io ritengo che quando non si capisce, quando c'è nebbia, non si deve mettere in macchina a fare un'autostrada. Quindi, siccome c'è una grande nebbia, io mi manterrei molto, molto, o comunque scarico di rischio. Poi è naturale che bisogna declinare che cosa uno ha nel portafoglio, se non ha nulla, eccetera. Ecco, poi ci sono alcuni che dicono allora compro casa e allora esatto, anche lì... Esatto, perché quando voi investitori professionali parlate di liquidità non è che esattamente, suggerite di mantenere tutto sul conto corrente. Essere liquidi significa anche magari avere un portafoglio obbligazionario di breve scadenza con rendimenti però quasi negativi. Ma noi, devo dire, nel gergo diciamo portafogli diversificati con correlazioni negative, quindi vuol dire che uno cerca di comprare una cosa e poi ne compra un'altra che è di fatto... può ammortizzare se la prima scelta non va così bene. Comunque, siccome questa è una situazione un po' più tecnica, io direi che chi ha liquidità aspetti, come si diceva prima, a capire quali saranno le prossime scelte politiche, perché i nostri politici, soprattutto certi all'interno dell'Europa, hanno, io la chiamo la sindrome del ricco svizzero, che si costruisce il cavò antinucleare, no? Sotto la villa a St. Moritz. Allora è naturale che il ricco si può costruire il cavò antinucleare sotto la villa di St. Moritz, ma se c'è tutto intorno che è distrutto, magari gli entra la zanzara dal Brasile dentro nella reazione della villa di St. Moritz e anche lui avrà la zicato. Quindi voglio dire, mi sembra che i nostri alcuni politici, soprattutto io sono molto allarmato su Schengen, che voglio dire Questo è il vero nodo politico. L'unica cosa in Europa che funzionava è che non c'erano più le frontiere. Adesso le stiamo eleggendo di nuovo. Ma per di più il grande sbaglio politico, e mi domando se i politici hanno mai partecipato ad un convegno sui megatrend in cui si descrive nei prossimi 50 anni, 100 anni che cosa succederà sulla migrazione, che l'Africa andrà praticamente, si sposterà in gran parte in Europa. Allora, noi riteniamo veramente che facendo barriere noi riusciremo a tenere l'Europa unita, l'Europa che invecchia, l'Europa che non consuma? Noi stiamo, secondo me, dissipando una potenziale crescita futura data da popolazioni che potrebbero aumentarci la produttività e aumentare la domanda interna. Vi suggerisco in questo senso di leggere un libro oggi, guarda, faccio così anche un po' l'agente letterario, Mappamundi di Domenico De Masi. Non c'entra niente con la finanza, ma in realtà delinea degli scenari anche economici, non solo sociologici, di tutto il mondo da qui ai prossimi 30 anni. Il raggio d'azione non è di 50 anni, ma è veramente un volume meraviglioso. Allora, Moria, purtroppo abbiamo solo un minuto e mezzo di tempo prima di salutarvi. Tassi di interesse. Allora, stiamo sperimentando questa situazione con tassi negativi sui titoli di Stato. Ieri una nuova asta, appunto, anche in Italia ha confermato questa tendenza per scadenze brevissime. In Giappone abbiamo toccato il terreno negativo anche per il BTP a 10 anni. Che relazione c'è fra questa situazione e la politica monetaria americana? Facci un piccolo affresco su questo argomento che richiederebbe 18 puntate, ma se ce la fai in un minuto. Allora, diciamo che tutte le banche centrali del mondo stanno cercando di giocare al ribasso sulla propria valuta, direttamente o più indirettamente, per cercare di sostenere la propria economia. Questo è quello che viene chiamato generalmente la guerra delle valute. Quindi la Banca del Giappone ha portato i tassi in negativo per deprezzare lo yen, la BCE ha annunciato che a marzo farà nuove manovre espansive per deprezzare l'euro, la Banca Centrale Americana ieri ha fatto capire che smetterà di rialzare i tassi, anzi forse li abbasserà, perché il dollaro sta salendo troppo. Quindi tutti cercano di svalutare, quindi se tutti svalutano in realtà nessuno può farlo. Esatto. Quindi si hanno valute che... Politica monetaria zero, praticamente. Coordinamento zero in realtà. Cioè, quello che servirebbe è un coordinamento tra le banche centrali, perché se no giochiamo un gioco a somma zero. Tu lo scrivevi nei giorni passati, a furia di svalutare tutte quante, fra un po' appunto non ci sarà più nessun effetto. Giancarlo da Verona, 10 secondi per dirci che cos'è il bail-in. Vuole portare a casa il nostro libro? Veloce? Certo. Il bail-in, diciamo che è stato introdotto per... è il passaggio praticamente, se una banca, diciamo così, ha dei problemi, ha dei buchi di bilancio, quindi deve andare in fallimento. Veloce! Insomma, sì, praticamente i soldi non vengono più elargiti dallo Stato per coprire questi buchi, però vengono elargiti dai correntisti. Ce l'ha il nostro libro, Giancarlo, bravo, ha studiato, grazie a Giancarlo, grazie a Moria Longo, grazie a Giuseppe Marsi per essere stati con noi. Purtroppo Cuore Denari è terminata, ma ritorniamo domani, quindi alle 10:30. Buona giornata a tutti.